È un brutto pensiero, ma una volta ci sono stato, mi è sembrato tutto vero, tutto vero, laddove non c'è il cielo, non ci sono le rondini, spazi senza margini, fiumi senza argini. Segui ora fra, guardi ora ma, la tua ora dimmi come te le immagini, come te le immagini. Segui ora fra, guardi l'ora ma, segui ora fra, guardi l'ora ma, la tua ora dimmi come te le immagini. All'inferno non so se ci passo, ve lo racconterò dopo che sarò scomparso. Riceverai un segnale scarso, non lo senti troppo basso, non lo decifrerai perché nel mondo troppo chiasso. Non ti accorgerai di un'anima smarrita che sta passando attraverso la tua vita. Forse sentirai un brivido gelido in salita, fulmina questa sensazione già svanita. Annuserai profumo di incenso, io verso un immenso mondo disperso. Tornare indietro non mi è concesso, c'è un guardiano alla porta ed è sempre lo stesso intorno a me. Oscure presenze come sull'isola di Lost, vedo il mio passato, non lo tocco come in Ghost. Legarmi i gabbiani perché arrivano gli albatros, mi hanno atteso, mi hanno preso sulla bilancia per ristabilire il peso. Vogliono che risolva i miei conti in sospeso. Coraggio è solo un passaggio, forse solo dopo la morte io diventerò un saggio. E mo da questo incubo sono quasi uscito e presto sarò libero senza più attrito. Scavando una scappatoia, voglio uscire da questa paranoia, perseguire la mia traiettoria. Verso la fine sono già sulla soglia, soglia, soglia. Guardala in faccia, guardala in faccia, guardala in faccia, guardala in faccia. Di fronte all'ultimo orizzonte, pensa se San Pietro non mi vuole, mi spedisce da Caronte. Niente soldi nelle tasche e mi gocciola la fronte. Sento ridere il silenzio, tiro pugni contro vento. Lacrime su lacrime fanno tremare il pavimento. Troppo tardi per un pedimento, parlate pure tanto non vi sento. Vorrei raggiungere i miei cari al di là del vetro. È giunta la mia ora, non c'è modo per tornare indietro. Benedite pure la mia strada, ma c'è troppa nebbia, ho troppa rabbia. Ho scritto vita, ma l'ho scritto sulla sabbia. Il mio dolore e il vostro amore l'ho cercato in fondo al mare. Mio Dio, dammi un solo istante per pregare. Come si può fare? Le parole le ho bruciate in un cestino. Non c'è luce, è troppo buio il mio cammino. Assai lontani sono i pianti di un bambino. Il mio destino, bella vita ma bastarda. Ricordo le speranze in un'anima bugiarda, un'anima che sogna. E quante volte nei miei sogni ho salvato il mondo. Ora mi guardi mentre affondo, senti che buono sto profumo delle rose. Stringetevi le mani, un altro sole sorgerà domani. Pace. Scavando una scappatoia, voglio uscire da questa paranoia, perseguire la mia traiettoria. Verso la fine sono già sulla soglia, soglia, soglia. Scotch, vetro.